Kiri Kustov si era sbagliato. Il volantino giallo era piovuto anche su Neuilly-sur-Seine. Non copriva la guida delle scale di Richard Lafitte, ma era stato lanciato, poi raccolto e letto in diversi punti dell'elegante sobborgo. Non erano punti scelti a caso, erano frequentatissimi, come la Place du Marché dell'Avenue de Neuilly, per esempio, il crocevia Inkermann, dove la via dei fedeli della chiesa Saint-Pierre si incrociava con quella degli studenti del liceo Pasteur, o anche in Rue Jacob du Lhut. La Rue Jacob du Lhut non era molto battuta, ma c'erano gli stabilimenti Saucik, carrozzerie di lusso il cui alto muro bianco era attiguo al portico di una piccola sinagoga. Un disegnatore di graffiti aveva anche bellamente inciso nella pietra tenera del muro una freccia rivolta verso il tempio e due parole: stesso proprietario. La Rue Jacques du Lude è parallela alla Rue Charles Lafitte. Dalla cucina di Armelle si vedevano le vetrate azzurre delle officine Saucik, ma Nicole non passava mai dalla via Jacques du Lude. In ogni modo, quella mattina Nicole non era passata da nessuna parte. Dormiva, finalmente. Era piombata nel sonno all'alba, sfinita dalle ore di lacrime, afona, intontita da un mezzo flacone di passiflorin che le aveva somministrato Janek a cucchiaini come a una lattante. Si era addormentata nel cavo del braccio sinistro del marito con la testa posata sul suo petto, ma anziché girarsi dalla sua parte, come faceva sempre dopo un po', era rimasta così, inerte e pesante. Era stata l'anchilosi a svegliare a metà Janek. L'anchilosi o i solfeggi? Al piano di sotto stavano già strimpellando. Stralunato e furente, Janek aveva tentato di smuovere la moglie che gli si aggrappava come chi sta per annegare. «Torno subito!» aveva mormorato svincolandosi ed era scivolato fuori dal letto. Titubante, con il pigiama sgualcito e macchiato di tracce di rimmel all'altezza del cuore, aveva fatto il suo ingresso in cucina, dove se ne stava rintanata Armelle in attesa che suonasse il campanello. «Vada a bussare al secondo piano e chieda che smettano di suonare il pianoforte. Dica che c'è una malata!» aveva bofonchiato. «Non capiscono il francese!» aveva obiettato Armelle. «Non ha che da fare dei gesti!» aveva risposto Janek dirigendosi verso il salotto dove aveva afferrato il telefono. Aveva chiamato Anita a casa per avvertirla che non sarebbe andato in Rue d'Aboukir. Poi aveva chiamato Truà per raccontare di Maddy. E infine di Bateau-Ripoix per raccontare di Maddy e di Nicole. Il piano ora taceva. Janek era stato brevissimo nelle sue comunicazioni e aveva fatto a bassa voce come per non svegliarsi del tutto. Ad Armel, che aspettava ordini e complimenti per la sua missione al piano di sotto, aveva borbottato: «Non ci svegli!» Poi era tornato in camera a ritrovare quell'incosciente, calda e disarmata contro cui si rannicchiò con una voluttà che lo sconvolse, e fu in lei, che si era appena mossa, che finalmente si addormentò per davvero. Niente lasciava prevedere che il foglio giallo che volteggiava all'intorno avrebbe forzato quella cittadella del dolore, dell'amore e del sonno condivisi che era diventata la grande camera buia tagliata fuori dal mondo. Fu, peraltro, ciò che accadde sotto forma di un plico sigillato da consegnare personalmente al signor Jean da parte dell'avvocato du Bateau-Ripoix. Lo portò Hubert, l'autista con i guanti. La povera Armelle rifiutò di svegliare il signore. «C'è stata una disgrazia», cominciò a spiegare. «Lo sappiamo», l'aveva seccamente interrotta Hubert, che detestava la familiarità e l'indiscrezione, tranne nei rapporti con il padrone, il quale a volte gli dava volentieri del tu e raccontava tutto su tutti appena era salito in macchina. Hubert, perciò, sapeva tutto della disgrazia, ma di il resto e anche molto di più. Squadrò la Bretone. Conto su di lei, signorina, per far sapere al suo padrone che il mio avvocato passerà verso le 19. È indispensabile che questo plico venga consegnato prima di tale ora. Ha capito bene? Farò la sua comunicazione con le altre, che ho perfino messo uno straccio alla suoneria del telefono che ha suonato tutto il tempo per le altre comunicazioni da stamani. Ora che sono già le 3, la signora ancora non ha chiamato. Ma stia tranquillo, metterò il suo messaggio con il tè», aveva dichiarato Armel con la tranquilla sicurezza di coloro la cui efficienza è già stata collaudata. Poi aveva richiuso la porta. Che casa! Che servizio! Si disse Hubert scendendo le scale. Ripensò a Lucas, la cui promiscuità impostagli durante la scorribanda a Troyes gli era stata proprio insopportabile. Il volantino, piegato in quattro, cadde sulle lenzuola sgualcite quando Yannick ebbe aperto la busta. Fu Nicola ad afferrarlo distrattamente, senza spiegarlo né lanciarvi uno sguardo, mentre Yannick leggeva ad alta voce la missiva dell'avvocato. «Caro amico, cerco invano di raggiungerla per telefono, ma la giovane druidessa che risponde da lei non mi pare sia la migliore interlocutrice. Faccio quindi ricorso al mio corifeo personale. Ci sono novità dalle parti di Viale Chateaubriand. Il nostro giovanotto esce in questo momento da casa mia, ha dei progetti stupefacenti». Corro al palazzo a perorare la causa della povera Gentiane de B per il suo sciagurato incidente da caccia. Sarò qui incomunicato nelle prossime ore, ma passerò da lei verso le 19 per parlare di tutte queste cose e baciare la mano di Victoria. Cordialmente, Jean Gaetan. PS. Mi portano ora questa cartaccia che oggi circola in città. Me la fa avere il collega Lévy di Lady Couture, anche lui mio cliente. Guardi entrambe le facciate. Lei è più indicato di me o di Roger Ziegler per capirne tutti i termini. A fra poco, Jean Gaetan. Yannick ripiegò la lettera e guardò Nicole che taceva. Sotto le palpebre gonfie non le si vedevano più gli occhi. Le prese dolcemente il rettangolino giallo dalle mani e si mise a leggere per sé solo. «Che cos'è quest'altra merda?» mormorò in Yiddish dopo aver preso conoscenza delle prime parole della versione francese. Girò il foglio, seguitò la lettura in Yiddish fino al punto interrogativo, poi girò ancora una volta il foglio dal lato francese per rileggere tutto. «Me lo sentivo venire. Beh, ecco, ora ci siamo!» disse con tono neutro e di nuovo si voltò verso Nicole. In un soffio lei disse qualcosa che non capì. Teneva sempre il foglio giallo in mano. Si chinò sulla moglie, che si coprì il viso con le mani. Yannick sentì. «Non mi guardare, non mi parlare ancora. Lasciami il tempo di riprendermi». Yannick posò il volantino davanti a lei e si alzò. «Sono già le 5. Non dimenticare che fra 2 ore verrà du Bateau», disse. E uscì di camera. Lei riposò la testa sul guanciale e con la punta delle dita fece l'inventario dei gonfiori che la sfiguravano. Non si era guardata nello specchio del giorno prima, ma lo sapeva. Sentì scorrere la doccia in bagno, poi il telefono che suonava, la voce di Armel, seguita da una lunga sequenza di silenzio, infine la voce di Yannick, prima bassa, poi urlante. Il rumore che faceva, le poche parole che poté afferrare, la costrinsero a emergere dal torpore al quale le sarebbe piaciuto abbandonarsi ancora un po'. Allora si decise a leggere il volantino. A scorrerlo, dapprima fermandosi per rileggerlo solo sulle frasi che comprendevano la parola ebreo, i cui grossi caratteri la tiravano come calamite, la contò 6 volte. Di cui una al femminile che la colpì più delle altre, come se la direzione ebrea delle Gallerie Lafayette fosse un donnone grande e grosso piazzato su un trono. Ne contò 6 anche in Yiddish. E capì meglio il senso del post-scriptum di Du Bateau-Ripois, al quale non aveva fatto molto caso poco prima. Era la prima volta che l'avvocato dissociava apertamente Yannick Roginski dai suoi cattolicissimi clienti e amici, gli Ziegler Leblanc. Nicole si disse che era cominciata la fine di qualcosa e si alzò. Fece un bagno caldo, si lavò la testa, si sciacquò a lungo con l'acqua tiepida, fredda, poi gelida. Senza guardarsi nello specchio, si fregò la criniera con un asciugamano di spugna. Da un armadietto tirò fuori un pacchetto di cotone e un grosso flacone. Il liquido era azzurrino e sull'etichetta che portava il numero 120 lozione, Maddy aveva scritto di suo pugno per cancellare i tuoi dopo vodka difficili. Preparò 2 grosse compresse e drappeggiata nel suo accappatoio si mise lunga distesa sul parquet della camera. Posò le 2 compresse sul viso e il flacone a portata di mano. Sapeva di dover rinnovare le compresse perché potessero compiere il loro miracolo. Fra una mezz'ora sarebbe andata a riconoscersi nello specchio e si sarebbe ritrovata come si era lasciata, giacché si era risparmiata lo spavento di vedersi qual era ancora. E si sforzò di non pensare più ad altro. Sotto i tamponi cominciava la zuffa. Il sangue pizzicava, pulsava, rimbombava sordamente. Madi non le aveva mai voluto dire che cosa ci fosse in quell'intruglio. Avrebbe dovuto farlo analizzare per averne dell'altro, giacché non ci sarebbe più stata Madi per portarglielo. Un'onda tiepida sgorgò sotto la compressa. Nicola applicò le dita sul cotone e a tentoni afferrò il flacone. Si versò qualche goccia fredda sulle palpebre come per uccidere le lacrime. Se è per ricominciare a frignare, non ne vale la pena, disse piano. Ripeté la frase per provare la voce. Non ne uscì alcun suono, il che le dette voglia di ridere, e il suo riso le giunse come un attacco di pertosse. Mi ci vorrebbe il miele. Caramelle al miele, pensò. Ebbe voglia di chiamare Armel per mandarla a comprare le caramelle al miele, ma avrebbe dovuto drizzarsi per raggiungere il campanello e togliere le compresse e interrompere il loro lavoro, e sarebbe stato tempo perso. Lei non aveva tempo da perdere. Le restavano tante di quelle cose da fare prima delle 7: truccare il suo viso ritrovato, farsi o non farsi le trecce a seconda del vestito che avrebbe scelto, per non avere l'aria di una sconfitta che accoglie colui che già considerava come il nemico. Sentì Jean parlare al telefono. Non gridava più, conversava, e non con la Rue d'Aboukir, forse con Lévy Couture, come lei chiamava quei quattro fratelli che non le piacevano. Suonarono alla porta d'ingresso e sentì Armel aprire e richiudere quasi subito. Poi al piano di sotto cominciarono degli esercizi a quattro mani. E Nicole pensò ai Les Gentils, alla riposante stupidità di Joël e allo sguardo azzurro del cugino folle, alle volpi argentate, all'odore di miele, di limoni e di vetivè, delle pellicce del palazzo dell'Ermellino e alla piccola vetrina che era andata in frantumi al passaggio di quei giovani armati di bastoni quando era ancora piccolina, e alla sua paura e al sorriso di suo padre per tranquillizzarla, e al terrore di sua madre che diceva «Ricomincia! Ricomincia!» scuotendo il capo, e alla quale nessuno rispondeva mai niente. Sua madre, Anna, chi mai aveva detto «polacca della malora» in quei giorni? Qualcuno aveva detto «polacca della malora» in una risata. Lo doveva trovare, altrimenti si sarebbe messa a cercare per ore e non aveva tempo da perdere. Era una cosa recente, recentissima, in una risata. E fu la risata che riconobbe. Ma non bisognava pensare a Maddy, non bisognava pensare neanche a Joël, perché pensare a Joël voleva dire pensare al mazzolino di Maddy deposto sullo zerbino, con la sua galetta parlante che avrebbe deciso di tutto per 9 anni della loro vita, la vita di tutti. Non ci sarebbe stato decimo anno. Il filo si era spezzato, ma ci sarebbero stati tutti gli altri, e ormai bisognava pensare a quelli. E Nicole si sforzò di riflettere sul serio e pensò al volantino, a quello che voleva dire veramente. Il cotone era quasi asciutto, era buon segno, i muscoli sotto la pelle avevano pompato il prezioso liquore. Li imbeve di nuovo e concesse a se stessa un altro quarto d'ora di immobilità totale sul parquet. Di sotto i due pianoforti continuavano a suonare, ma era diventato gradevole, l'ora dei compiti era passata. Nicole non ascoltava, ma sentiva, e fu su un fondo musicale di Schumann che cominciò a sognare di partenze. Alla fine della suonata, le due compresse erano asciutte e Nicole aveva preso la sua decisione. Si liquida e si va via, disse rialzandosi. Volle chiamare Janek, ma si ricordò che era ancora afona. Allora, a piedi nudi, nuda sotto l'accappatoio bianco, il viso fresco e tutto odoroso delle piante riparatrici, i capelli ancora umidi che le crollavano sulle spalle, corse in salotto a ripetere la frase all'orecchio di Janek. «E dov'è che si va?» fece Janek, doppiamente stupefatto dalla sua bellezza ritrovata e dal tenore della sua dichiarazione. «Lontano dai ghetti», disse in Yiddish. E scappò verso la cucina per mandare Armella a comprarle le caramelle al miele. Tornò in salotto. Janek era talmente assorto che non rialzò la testa. Stava scarabocchiando sul retro di una busta. Lo lasciò e se ne tornò in camera. Sedendosi davanti allo specchio della toilette, si fece un gran sorriso. La sua pazza frasetta aveva germogliato come un seme. Janek stava facendo i conti. Si liquidava. Si sarebbe partiti. Si strinse i capelli sotto una fascia e cominciò a truccarsi. Le 7 non erano lontane e Nicole era quasi pronta quando suonò il telefono. Preoccupata, si avvicinò alla porta per ascoltare. No, non era quell'imbecille di Dubator Ripoix che disdiceva l'appuntamento. Janek aveva il suo tono a Bukir. Rassicurata, si concentrò sugli ultimi 3 dei 16 bottoncini di marca Sit che chiudevano il suo abito da casa. Era una lunga cosa di velluto nero, impreziosita allo scollo e alle maniche da pizzicolor champagne, una tenuta sontuosamente drammatica e fuori moda, e non senza ragione. Preso a prestito per una sera il mese prima, il costume Anna Karenina numero 92 non era mai tornato fra le scorte. Si accingeva ad arrotolare il braccialetto serpente intorno al polso sinistro quando Janek entrò in camera. «Mio fratello ha tagliato la corda», disse lasciandosi cadere sul letto senza guardare Nicole. «Che vuol dire tagliato la corda?» chiese Nicole riposando il braccialetto sulla toilette. «Tagliato la corda, lasciato il laboratorio, non tornerà, mi lascia solo a sbrogliarmela con quegli stronzi!» Janek rifletté una frazione di secondo, poi soggiunse, sempre senza guardare Nicole, «e quella stronza!» «Quale stronza?» chiese dolcemente Nicole. «Anita! Voleva che andassi. Forse ci sarei dovuto andare.» Guardò finalmente Nicole. «Per fare che? Per trattenere tuo fratello che hai tirato fuori dagli Shtetl? O per sistemare gli affari con le gallerie Lafayette che comunque li sistemeranno alle tue spalle con Ziegler LeBlanc? Perché gli Ziegler LeBlanc, loro, non li disturba quello che succede in Germania.» «Non disturbava neanche te una volta. Ricordati come ci siamo bisticciati per via di quel mascalzone di sotto e della sua storia di ebrei a quattro zampe.» Con la mano Nicole gli chiuse la bocca, gli si inginocchiò davanti e affondò lo sguardo nel suo. «Una volta non mi disturbava niente. Eravamo felici. Era estate. Si faceva l'amore al Bois de Boulogne. Io avevo maschere e avevamo Maddy. Oggi che cosa abbiamo? Gli strimpellatori berlinesi che si piazzano di sotto e ci riportano questa roba.» Afferrò il volantino che era rimasto sul letto e agitò il grosso punto interrogativo sotto il naso di Janek. Le prese il volantino dalle mani, lo ripiegò e se lo mise in tasca. «Sei molto infelice, vero?» fece dolcemente prendendole il viso tra le mani. Lei fece di sì, con la testa, chiudendo gli occhi. «Per aver perso Maddy o per aver perso maschere?» «Tutte e due», disse lei con gli occhi sempre chiusi. «E ora ho paura.» Riaprì gli occhi. «Partiamo, tesoro, prima di essere troppo vecchi.» Le baciò la bocca, l'aiutò a rialzarsi e si alzò a sua volta. Nicole tornò alla toilette, si mise il braccialetto, si portò la mano alla gola e prese una caramella al miele. Suonavano alla porta. «Non parlare del volantino, lascia che lo faccia lui», mormorò Nicole, mentre Janek andava incontro a Dubator Ripoix, al quale Armel stava aprendo la porta. «Probabilmente il signore ha già cenato», chiese Hubert, aprendo lo sportello all'avvocato di Dubator Ripoix, quando questi comparve sul portone verso le 9. «Ahimè, vecchio mio, lassù gli umori erano poco propizi ai festini. Torniamo a casa», disse sedendosi dietro. Procedettero per un po' in silenzio. «E come sta la signora Victoria Jean dopo tutti questi avvenimenti?» «Se mi posso permettere», si informò rispettosamente Hubert. «Un fantasma, mio povero Hubert. Ho visto un fantasma con i capelli sparsi, ma di una bellezza conturbante nel suo smarrimento.» «Che settimana, però», si permise di sospirare Hubert. «Certo», assentì l'avvocato di Dubator Ripoix, che per una volta non era in vena di confidenze. Nell'avenue della Grande Armée, Hubert rallentò sensibilmente la velocità all'altezza della Rue Pergolese. «Ci sono notizie delle condizioni del signor Leblanc?» chiese, voltandosi leggermente verso il sedile posteriore. «Stazionarie, condizioni stazionarie», biascicò l'avvocato di Dubator Ripoix dopo aver lanciato un'occhiata a destra, verso quell'angolo di strada, dove aveva tanto spesso deposto Augustin che assicurava di volersi sgranchire le gambe. Hubert accelerò e non disse più una parola. Altrettanto fece l'avvocato di Baton Rouge. Rifletteva e calcolava. Calcolava l'ammontare degli onorari che si era ben meritato al termine di quella lunga giornata di lavoro e rifletteva sul modo di suddividerli. Suddividerli gli parve impossibile. Decise che doveva presentare due diversi onorari, uno ai suoi clienti Roginski per aver suggerito loro l'idea di sbarazzarsi delle loro quote nelle attività Ziegler-Leblanc, i cui destini gli sembravano aleatori con i tempi che si annunciavano. L'altro ai suoi clienti e amici Ziegler-Leblanc per averli definitivamente sbarazzati della coppia Roginski, di cui ormai trovavano le origini scarsamente compatibili con le esigenze dei tempi che si annunciavano. «Bisogna saper voltare pagina», avrebbe detto a ciascuno quando tutto fosse stato sistemato grazie a lui. Grazie anche a quella sgualdrinella di Rue Pergolese, bisognava bene ammetterlo. Dio sa se aveva combinato dei guai quella là, ma scomparendo come aveva fatto, bisognava ammettere che aveva pur contribuito a rimettere le cose a posto. Era più che tempo. Erano quasi all'Étoile. Sotto l'arco, gli Champs-Élysées scintillavano fino all'obelisco. Dubatteau si voltò. Attraverso il lunotto posteriore, il largo nastro illuminato a gas si allungava fino alla Défense. «È lugubre questa avenue che non finisce mai, non trova, Hubert?» disse con un tono che significava che era uscito dalle sue riflessioni personali. «Ho notato che il signore fa sempre questa osservazione quando passiamo di qui», fece Hubert, soddisfatto di riprendere la conversazione. «Quando passavamo da qui, mio caro Hubert, passavamo, non ne avremo più molte occasioni in avvenire, tranne che per rifornirci di fari o paraurti, naturalmente, dal momento che questa tetra avenue della Grande Armée è anche la panacea dell'automobilista. Ah, il signore mi ha fatto paura. Ho creduto che lasciassimo Parigi», disse Hubert, ridendo. «Oh no, non noi», esclamò l'avvocato di Baton Rouge ridendo a sua volta. E ripensò ai Roginski. Non avrebbe emesso nessuna fattura per la questione. Chateaubriand non aveva dovuto fare il minimo sforzo per convincerli. Aveva appena cominciato a trasmettere le proposte di quel pazzo che Victoria Jean l'aveva interrotto. Sormontando il dolore e la fonia, aveva emesso una specie di soffio affannoso che voleva essere un sogghigno. La questione era chiusa, si poteva archiviare. La cooperativa dei burattini si sarebbe fatta senza di lei. Quanto al volantino, dal momento che non ne avevano parlato, lui si era astenuto, come del resto l'aveva pregato di fare Ziegler, telefonando da Troyes. Il volantino era piovuto anche lì. Anche il suddetto volantino era stato d'aiuto. A Roginski, ovviamente, aveva dato voglia di partire. «No, non noi», ripeté l'avvocato di Baton Rouge. «Noi restiamo a casa nostra. Il mio bicchiere è piccolo, ma io bevo nel mio bicchiere il vino del mio paese». «È pur sempre qui che si sta meglio», approvò Hubert, fermando silenziosamente la grossa Panhard lungo il marciapiede dell'Avenue MacMahon. Hubert aprì lo sportello. «Le auguro una buona serata, signore. Vedo che il signore non sarà solo». L'avvocato di Baton Rouge alzò la testa. Al terzo piano c'erano quattro finestre illuminate. «Spero che i giocatori di bridge di mia moglie mi avranno lasciato qualcosa da mettere sotto i denti e che non avranno invaso il mio studio, perché la mia giornata non è finita, vecchio mio. A domani, alle 10. Buonasera, Hubert», disse con tono falsamente esausto, dirigendosi verso il portone di ferro battuto. Gli rimaneva ancora da chiamare Troyes. «Prima degli altri». Sarebbe stato poco abile lasciare che annunciassero prima di lui una decisione di cui era stato l'artefice. Si ritiravano. Era perfino probabile che si levassero dai piedi. Non aveva sognato. Riaccompagnandolo, la rossa aveva parlato di America. O era stato lui a parlarne per primo? Bah, comunque era bene che fosse lui a parlarne per primo agli Ziegler, era quella l'astuzia, ma bisognava far presto. E poiché l'ascensore idraulico tardava a scendere dal terzo piano, salì gli scalini a 4 a 4. Nessuno si accorse che era tornato a casa, salvo il maggiordomo al quale diede ordine sottovoce di fargli portare nello studio un piatto di tartine e un whisky. Nel salone grande, nel salone piccolo e nel salottino, solo gli annunci rompevano un silenzio di buon gusto. L'indomani di quel giorno, la mattina di buon'ora, Roger Ziegler uscì dalla Bonchanson per recarsi alla stazione. A Troyes nevicava e lui preferiva prendere il treno per andare a sistemare i suoi affari a Parigi con maggior sicurezza. Al liceo Voltaire, in un ambiente di falsa Sorbona, Maurice, Robert e Samy traducevano Cicerone, contrariamente a tutti i pronostici che fino alla vigilia davano Virgilio come favorito. In Rue d'Aboukir aspettavano. Aspettavano i padroni, o un padrone, non si sapeva più molto bene. Aspettavano perché la signorina Anita aveva detto di aspettare e Chiri non si era infilato il camice. In Rue de la Mar, nella cucina dei Roginski, per la prima volta da quando era nata Zazà, faceva colazione con suo padre durante la settimana, come la domenica. Nel pomeriggio, in Rue d'Aboukir, davanti al personale riunito, Roger Ziegler venne ad annunciare che per ragioni di salute il suo socio, il signor Roginski, si ritirava dagli affari, venendo a mancare a Femina Prestige le eccezionali competenze di un eccezionale professionista, si vedeva costretto a chiudere il laboratorio pellicceria e ad accontentarsi della sua primitiva vocazione che era donna e bambina, lana con guarnizioni, lana con imitazioni di pelliccia. I signori pellicciai, desiderosi di imparare a lavorare la finta pelliccia, erano naturalmente i benvenuti, ma lui avrebbe capito benissimo che abili come erano a trattare la materia nobile fossero restii a mettere la loro competenza al servizio di surrogati che, tra l'altro, non avrebbero assicurato loro il salario che essi spettava proprio in virtù della loro competenza. Il tutto era scritto su un pezzo di carta sotto forma di appunti che il signor Ziegler sbirciava tra una frase e l'altra. Concluse precisando che le ordinazioni in corso sarebbero state portate a termine, ma che sarebbero state le ultime. Precisò che era spiacente, che avrebbe rimpianto coloro che se ne fossero andati, ma che così è la vita e che bisogna saper voltare pagina. Poi uscì in un silenzio di tomba. «A voi la peluche, ragazzi!» disse Chiri in francese dopo un po', e si mise a ridere di un riso enorme che non contagiò nessuno. «Sono fantastici», soggiunse allora in Yiddish. «Non ci rispondono, non ci obbligano, non ci licenziano, non ci torcono un capello, ci tagliano semplicemente le mani, ai coglioni. Non avrebbero osato se ci fosse stato Stepan». «Stepan se n'è andato per colpa tua, sicché chiudi il becco, Chiri», disse il più vecchio dei tagliatori. «Perché non me l'hai fatta ieri la scenata?» ribatté Chiri. «Perché ieri si aspettava Roginski. Oggi c'è rimasto solo Ziegler, e Ziegler delle nostre storie d'ebrei se ne frega», fece il vecchio tagliatore. «Figurati se ne frega, non pensa ad altro, è per questo che ci liquida». «Non ci liquida», corresse il vecchio tagliatore. «Hai ragione, Serge, non ci liquida, ci propone educatamente di prendercela in quel posto e di dirgli grazie», esclamò Chiri. «Ah, finiamo il lavoro. Discuteremo stasera», concluse Serge. Più o meno alla stessa ora, una dozzina di ragazzi rumorosi invadevano il bar tabaccheria Le Bigoudin, a 200 metri dal liceo Voltaire. Nonostante l'ora, quella della merenda e il profumo della cioccolata schiumante, ordinarono dei boccali di birra e tirarono fuori dalle cartelle le brutte copie dei compiti di matematica per confrontarle. Il metodo Samy aveva funzionato. La geometria imparata a memoria aveva salvato Maurice, che aveva preso una cantonata nel problema di algebra. «Grazie a quello stronzo di Cono avrai lo stesso la sufficienza, e con quello che ti fa guadagnare Cicerone senza nessun errore sei a posto». Fecero una partita di gru elettrica, non acchiapparono l'orologio che li mollò all'ultimo momento e si divisero le caramelle verdi che trovarono schifose. «Le sue caramelle sono immangiabili, ma la birra è ottima», disse Robert al padrone, che ne aveva viste ben altre, e in particolare con quei liceali che varcavano la soglia di un caffè per la prima volta in vita loro. Alla fine del pomeriggio, Stepan era sul marciapiede della stazione Strasbourg Saint-Denis sotto la Saponite, come al solito. Dopo aver poltrito a letto e aver fatto colazione con Zazà, si era sentito un tantino intimidito. Olga era scesa da Sonia in casa Bonnet e lui non aveva osato seguirla quando glielo aveva proposto. Lei non aveva insistito. Aveva lavato le tazze, rimesso a posto il letto, si era sbarbato e vestito tirandola per le lunghe, poi era andato a cercare lavoro. Elia la sera prima gli aveva consigliato l'Associazione degli Artigiani Pellicciai in Faubourg Poissonnière, dove gli avevano chiesto delle referenze. Da un caffè allora aveva telefonato alla signorina Anita che soprattutto non dimenticasse di far firmare un certificato per i 13 anni passati in Rue d'Aboukir e che lo accludesse a suo conto. La signorina Anita era stata molto gentile, non l'avrebbe dimenticato, domani avrebbe avuto tutto. E Hiri? Aveva chiesto Stepan dopo un breve silenzio. Ah, non posso dirle niente, aveva detto la signorina Anita e aveva riattaccato. Stepan aveva mangiato un uovo sodo al banco, aveva bevuto un bicchiere di vino bianco, poi era uscito dal caffè. Pensò di tornare a casa, ma gli sembrò fosse un'ora strana per tornare, era appena uscito. Domani sarebbe stato diverso. Domani, con le referenze in tasca, sarebbe andato, tornato e riuscito, sarebbe stato diverso. Ebbe per un attimo la voglia di andare dritto in Rue d'Aboukir per farsi dare subito la sua carta e poi tornare subito all'associazione, ma ci rinunciò. Di che avrebbe avuto l'aria? Bisognava pensarci ieri alla carta. Se la prese con se stesso, se la prese un po' con la signorina Anita, lei le sapeva queste cose, ne aveva l'abitudine. Si chiese se sarebbe stato Janek a firmare il certificato o se sarebbe stato firmato illeggibile, come tutto quello che usciva dagli uffici del secondo piano. Camminava da un pezzetto e ancora non aveva deciso dove andare. C'era, sì, Lena Baba, Barbé, non ci aveva mai messo piede, ma quelli del laboratorio ne avevano parlato spesso. Era lì che i padroni venivano a scovare i pellicciai senza lavoro che aspettavano tutta la giornata. Come le puttane, tutti i pellicciai in salotto, diceva Hiri quando nominavano Lena Baba. Non era lontano dai fratelli Mercier. Ebbe la tentazione di andare a fare un'improvvisata a Elia e ai suoi compagni, che aveva già incontrato due volte, una volta quando era andato a ringraziare signor Paul per la naturalizzazione, un'altra volta quando era andato a raggiungerli per la famosa sfilata del 12 febbraio del 34. Poi si disse che a capitare così avrebbe fatto veramente troppo disoccupato e ripensò a Hiri e pensò alle Galerie Lafayette. E decise allora di andare a vedere che cosa vi stava succedendo. Era ancora giorno, ma le vetrine natalizie erano già illuminate e i giocattoli meccanici offrivano le loro pantomime ai passanti frettolosi. Non era giovedì. All'interno fu sorpreso dal caldo un po' afoso e dal ronzio sordo delle voci. Vicino all'ingresso, davanti a un banco da esposizione, delle donne frugavano in un mucchio di animaletti di celluloide. Per i nostri piccolini, tutto a 3 franchi, diceva la réclame. Stepan tirò su un grazioso cigno, il cui collo gli parve deliziosamente fragile. Lo rivoltò, poi rivoltò un pesce rosso, una balena, un anatroccolo, un coccodrillo e una rana. Avevano fatto tutti lo stesso viaggio, erano tutti made in Germany. Io questa roba non la compro, disse una voce. La celluloide è infiammabile, perciò con la mia stufa. Stepan gironzolò attraverso i reparti del pian terreno. Non toccava tutti gli articoli e neanche li rivoltava tutti, ma un po', come si giocava a tennis Barbé, contava i punti made in Germany ogni volta che l'istinto lo guidava verso un nuovo articolo in offerta. Dal colore, dalla forma, scommetteva con se stesso. In capo a un'ora aveva recensito delle borse dell'acqua calda violette fatte con un surrogato di gomma, patine di feltro grigio ferro orlate di rosso, tazze da caffè marroni e senza piattino, arricia capelli, pelli di camoscio, mazzi di fiori artificiali. Prese l'ascensore. Ai piani superiori forse avrebbe trovato quello che realmente era venuto a cercare tra le pareti dell'immenso edificio, l'incrinatura, i segni di un cedimento. Trovò quel che cercava alle confezioni per signora. Come alla mensa popolare, c'erano delle poverette che tendevano mani imploranti verso un caporeparto in tight. Abbiate pazienza, signore, abbiate pazienza. Una parte del nostro personale ha interrotto il lavoro. Prendete un numero d'ordine, per favore, ripeteva l'uomo in tight come una macchina, distribuendo parsimoniosamente dei dischetti numerati. Tenendoli come scodelle, le clienti andavano a raggiungere una fila d'attesa che serpeggiava tra i manichini di cartapesta con le braccia tese in un gesto aggraziato e come benedicente. A intervalli più o meno regolari, un fremito percorreva la fila. Salutava il ritorno di una delle tre commesse che da sole assicuravano il funzionamento di un reparto crudelmente handicappato. Erano donne di mezza età e si impadronivano dei dischetti numerati con aggressiva indifferenza. Stepan se ne stava fermo a osservare. Su un manichino credette di riconoscere uno dei suoi colletti di pedigree, ma non ne era sicuro. Lo palpò e nel farlo incrociò lo sguardo del caporeparto. Anche lui osservava, forse già da un pezzetto, quell'uomo solo che non comprava, non parlava a nessuno e accarezzava la pelliccia. Stepan si diresse verso la scala. Ora, fuori, faceva buio, buio e molto freddo. Davanti alle vetrine, i passanti erano diventati spettatori. C'erano molti bambini nelle prime file e dei piccini sulle spalle dei padri. Un orso bruno con la museruola di grandezza naturale si dondolava davanti a Cappuccetto Rosso, a Ciuffettino e a Dama Tartina che applaudivano. All'aria triste l'orso, disse un maschietto. Non lo chiederemo a Babbo Natale, è troppo triste, rispose la madre. Se la cava a buon mercato, pensò Stepan, che si rallegrò a scoppio ritardato di non aver mai trascinato Zazà davanti ai inaccessibili giocattoli, e ripensò al grazioso cigno a 3 franchi. Gettò un'occhiata all'orso e si chiese in quale laboratorio bavarese gli avessero cucito occhi così privi di speranza. Si diresse rapidamente verso il metrò. Bruscamente aveva deciso di andare ad aspettare Kiri nelle vicinanze di Femina Prestige, non per riconciliarsi, semplicemente per dirgli che per quanto riguardava la Galleria Lafayette aveva ragione lui, nient'altro. Non aspettò a lungo. Kiri uscì per primo e da solo. Non dimostrò nessuna sorpresa quando sentì Stepan fischiettare nel buio a 50 metri dall'atrio di Femina Prestige. «Eccoti te! Beh, se tu sapessi!» disse, e entrarono in un caffè che non frequentavano mai. Con lepida perfidia, un Hiri stanco aveva raccontato tutto, ivi compreso il discorso di Ziegler, tradotto in Yiddish a bassa voce. Stepan non aveva detto parola. Il suo discorsetto sulle Gallerie Lafayette gli parve davvero insignificante in confronto a quello che aveva saputo. Oh, se tu ci fossi stato, non avrebbe osato, lo so. È per colpa mia che sei andato via. Lassù me l'hanno ripetuto 4 volte, tutto il giorno. Mi sono già scusato ieri. Hai trovato lavoro? No. Aspetto il certificato. Il mio ce l'ho, fece Hiri, battendosi la tasca. Non sono mica pazzo io, soggiunse sogghignando. No, non sei pazzo tu, disse Stepan senza ridere. Ce l'hai ancora con me, eh? Credo che ce l'avrò con te per tutta la vita, mormorò Stepan. Ma questo non mi impedirà di rilavorare con te. Se mai trovo qualcosa di buono, te lo dirò. Hiri non rispose niente. Beve la metà della sua birra, poi. Allora così sei venuto a sentire le novità. Non mi farai credere che tuo fratello non ti aveva detto che mollava tutto. Vedi bene che le cose non si possono aggiustare tra te e me, fece Stepan. E neanche di Anita non sai niente, eppure siete amici voi due. Che c'entra Anita? Se ne va anche lei, Anita, appena avrà sistemato tutto per Ziegler e quelli della peluche. E dove va? Oh, questo non l'ha detto. Ha semplicemente annunciato che se ne andava anche lei, come me. E come me, protestò piano Stepan. Sì, ma te non è la stessa cosa. Stammi a sentire, Gustav. Ero venuto per darti ragione a proposito delle gallerie. Ne sto venendo dalle gallerie. Avevi ragione, ma per tutto il resto, vai a farti fottere. Stepan si alzò, pagò la consumazione al banco e uscì dal caffè sbattendo la porta. Sul boulevard vide l'ora. Non c'era assolutamente bisogno di correre. Era sicuro di trovare Elia. Alla stazione Pirenei, per terra, era già quasi tutto bianco. Il nevischio di Parigi aveva sempre fatto molto ridere Stepan ed Elia. A volte li faceva canticchiare certe canzoncine dell'infanzia. Stepan si chiese se stesse nevicando anche su Neuilly. Andiamo a comprare un Kirschenbär per festeggiare il falso bascellerato di Maurice, disse Elia. Fecero una piccola deviazione ed entrarono al Blé d'Or de Quimper.